Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a occuparci di Big Data stasera e l'occasione è l'uscita di un quaderno che troverete domani in allegato al Sole 24 Ore, titolo La miniera dei Big Data, come funzionano i grandi archivi di numeri, ed è il secondo capitolo di una collana che si intitola Lezioni di Futuro, composta da 15 quaderni dedicati a famiglie, imprese, a pubbliche amministrazioni per cercare di spiegare in modo anche, credo, semplice alcune delle innovazioni chiave del nostro tempo. Noi appunto di Big Data ci occupiamo spesso, quindi non potevamo perdere l'occasione. Qui con noi c'è Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, che ha curato questo secondo quaderno, giusto? Esatto, un saluto ai tuoi ascoltatori. Ciao Luca. Allora, Big Data. Allora, intanto facciamo una cosa, proviamo a fare un chiarimento di fondo e spieghiamo un po' qual è la differenza fra questa cosa che chiamiamo Big Data e i famosi database con cui invece abbiamo più familiarità. Allora, innanzitutto facciamo una differenza che possono capire tutti. Insomma, il mondo antico, quello prima, pre-Big Data, era il mondo di Excel. Excel Perfetto. Lo conosciamo tutti, insomma, il programma dove si inseriscono i numeri, e le aziende, i privati, che cosa facevano? Non facevano altro che inserire delle funzioni statistiche per cercare di capire se il proprio business andava bene, se c'era una media che poteva interessare o se c'era qualche cosa invece che non funzionava, l'anomalia statistica, però si rientrava sempre al primo anno di statistica, non di più. Cioè si andava a vedere la media, insomma valori semplici. Il mondo dei big data che cos'è? È che questi archivi sono diventati drammaticamente più grandi, ma soprattutto hanno assunto una nuova dimensione che è il tempo reale, cioè mutano nel tempo. Per cui lo scienziato, più che guardarli diciamo in due dimensioni, lo scienziato dei dati, li guarda nelle sue evoluzioni del tempo. Questo che cosa comporta? Che non esiste più il carotaggio classico. Vado a vedere che cosa succede, cerco di capire i bianchi ariani che hanno quel tipo di interesse, che cosa amano? No, guardo l'evoluzione. Guardare l'evoluzione richiede strumenti nuovi, tecnologie nuove, ma soprattutto domande diverse. E c'è forse un altro elemento ulteriore di complicazione, il fatto che appunto il foglio Excel è un modo ordinato, diciamo, di mettere i dati, che da un lato ti ingabbia, dall'altro ti aiuta nel fare le ricerche. Invece i dati di cui si parla oggi sono anche destrutturati. Queste immense quantità di dati si creano proprio perché si raccolgono informazioni da fonti e con formati anche completamente diversi, giusto? Ma infatti gli scienziati dei dati sono odiati da quelli classici perché lavorano un po' a casaccio. Cioè, cosa è successo? Che cercano senza sapere cosa stanno cercando. Esatto. Spesso. No? Esatto, esattamente così. Cioè, con la comparsa di internet, che è diventata una grande fotocopiatrice del reale, no? Abbiamo cominciato a riversare dentro internet tantissime database. Allora, ci vuole una persona che insomma sappia distinguere il database buono da quello falso, lo porta allo scienziato, a quel punto cominciano a incrociare. Per uno scienziato un po' perfettino, vecchio stampo, era un dramma, perché non hai il tuo classico Excel, devi mettere insieme mele e pere, tutto statistica, probabilità, correlazioni. Esatto, no? Ma anche dati diversi, certo. Cioè quello che è interessante, sì, del big data, è che tu metti insieme le famose mele e pere, ottimo, la mele e pera è ottimo, qualsiasi persona classica invece la mele e pera mai e poi mai. Impazzirebbe. Perché dalla Macedonia, ecco, guardando la Macedonia dall'alto, puoi trovare qualche cosa di interessante su come sta cambiando la frutta. Perfetto, perfetto. Ecco, Luca, allora ti chiedo una cosa. Un fenomeno che stiamo osservando e seguendo un po' anche con la trasmissione è il seguente. Cioè, parliamo molto di big data, delle potenzialità, delle informazioni nascoste in queste grandi masse di dati, ma spesso le masse di dati ci sono, eppure non vengono utilizzate. Ci sono big data che vengono ignorati dalle pubbliche amministrazioni. Qual è il problema? Perché? Allora, tu conta che tu hai di fronte Clark Kent, e poi di notte mi trasformo in un data journalist, cioè okay. Una parte del mio lavoro è quello di andare proprio a cercare le fonti di dati e cercare di realizzare delle infografiche interattive, per cui è un tema a me abbastanza caro. Qual è il problema? Il problema è che, come avviene nel giornalismo, no? Nessuno ha voglia di essere troppo trasparente, anche se ci sono delle regole pubbliche, per cui non è che c'è tanta voglia di rendere tutti i dati e di pubblicare. Informazione è potere. Esatto. Rendono il piccolo dirigente della piccola comune o della piccola amministrazione locale, perché deve dare i dati sulle scuole se poi dimostrano che tutte le scuole magari non sono in regola. Allora, la legge da un certo punto di vista ti dice che devono pubblicare, c'è una trasparenza, cioè devono pubblicare questi open data, questi dati che vanno a raccontare vari settori, però poi il giornalista fa una gran fatica. Quello a cui stiamo assistendo, da un lato, è una ricerca spasmodica di dati per cercare di leggere all'interno le notizie, cioè quello che è un pezzo del mio lavoro, di cercare le notizie nei numeri, negli Excel, perché poi loro te le rendono anche complicate. Se vai sul sito del Comune di Milano, per esempio, trovi gli orari di tutte le farmacie. Che tu dici, che cavolo me ne faccio degli orari di tutte le farmacie? Ti posso assicurare che non me ne faccio nulla. Se cerco però gli stipendi di tutti i dipendenti, faccio un po' più fatica. E anche questo invece sarebbe un... magari un formato difficile da smontare. Sì, lo fanno un po' apposta, poi ti cambiano un po' il linguaggio, lo nascondono, ti mettono un numerino nell'Excel che fa sì che quando lo fai leggere al programma non lo... Insomma, è la parte divertente. È come quando il giornalista classico alza il telefono, chiama la fonte e la fonte non gli risponde o dice no, sono occupato, va via, ecco. Non so se abbiamo detto quello che poi gli ascoltatori potranno trovare nel libro, ma senz'altro abbiamo detto qualcosa sui big data. Grazie Luca Tremolada. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.